Gesù. Sono già bianche le case, la neve ancora vien giù. In questa notte divina io vorrei chiederti se uccide, è cattiva.